Steve a mis au point différents réservoirs. La finestra sul cortile di Riccardo Chiaverge. Bentornati, rieccoci alla nostra finestra settimanale sulla cultura internazionale. Non crediamo più nei miracoli. Siamo delusi dalla medicina, dall'industria farmaceutica che in questi anni ci aveva promesso non soltanto di curare le malattie, ma di farci vivere meglio, più felici, più in pace con noi stessi e col mondo. Ci aveva promesso di migliorare le nostre prestazioni nel sesso, a scuola, sul lavoro. Ma esistono medicine che possano renderci più felici? Esistono soprattutto farmaci che possano garantire agli studenti il massimo dei voti alla maturità o aiutarli a laurearsi prima e meglio? Di farmaci e di rendimento scolastico parleremo in questa puntata della Finestra sul Cortile, ma intanto ascoltiamo cosa prevede il nostro sommario. Stati Uniti. Gli americani non credono più nei miracoli promessi dall'industria farmaceutica. Francia. Paracadute d'oro, metafora meno ansiogena per dire crisi, è stata proclamata la parola dell'anno. Inghilterra. Gli studenti non sono più bravi come un tempo o è la scuola che deve essere riformata? Cina. Dipinti allo zucchero, l'arte cinese diventa golosa. Germania. Torna la Melkus, la Ferrari del mondo comunista. Israele. Marketing religioso, l'ultima frontiera per diffondere la fede ebraica. Sono finiti i miracoli della medicina? È quanto si domanda TV Troy sulla rivista americana Commentary, che è una rivista di orientamento conservatore. E la risposta è abbastanza problematica, ma certamente non molto incoraggiante. Scrive TV Troy che il rapporto, soprattutto tra il pubblico, tra l'opinione pubblica americana e l'industria farmaceutica, negli ultimi anni si è evoluta in senso negativo, nel senso soprattutto di una specie di odio-amore che spesso lascia il posto addirittura ad un'ostilità viscerale. Lo si è visto anche nei film hollywoodiani dedicati alle malefatte di Big Pharma. Ma perché, si chiede TV Troy, questo atteggiamento così negativo che ha soppiantato invece un atteggiamento di grande speranza nei prodigi della medicina e della ricerca farmaceutica? Beh, dice soprattutto perché la ricerca segna il passo in molti campi, e benché sia i governi liberali sia i governi conservatori abbiano incoraggiato la ricerca in campo biomedico negli ultimi decenni, praticamente quello che succede è che occorrono 10 anni e $1 miliardo in media per ottenere l'approvazione da parte della Food and Drug Administration di un nuovo prodotto. E poi TV Troy fa un po' la storia della politica delle amministrazioni americane nei confronti dell'industria farmaceutica, elogiando in particolare Reagan, che proprio con le sue liberalizzazioni e con le sue deregulation ha favorito molto la ricerca. Viceversa, Clinton avrebbe cercato di fare una politica più statalista, più di regolamentazione dei prezzi delle case farmaceutiche, e questo secondo lui avrebbe depresso la ricerca. Il risultato comunque è che mentre alla fine degli anni 90 l'industria farmaceutica aveva raggiunto degli grandi risultati con prodotti come per esempio gli antistaminici, gli antidepressivi, dalla fine degli anni 90 non abbiamo visto dei miracoli in altri campi, e quello che è successo è che l'industria farmaceutica si è buttata soprattutto sulla pubblicità promettendo anche degli effetti miracolistici da prodotti studiati per altri scopi, per esempio il Viagra, che come sappiamo serve soltanto, dovrebbe servire soltanto in caso di gravi patologie, e invece viene usato per aumentare le prestazioni sessuali. Quindi sostanzialmente c'è una politica di consumismo farmaceutico, addirittura di vendita delle malattie. Questa la denuncia della rivista Commentary. Ma intanto diamo il benvenuto a un ospite, il professor Silvio Garattini, che abbiamo in linea. Grazie di essere con noi. Grazie a voi. Il professor Garattini, direttore dell'Istituto Mario Negri di Milano, uno dei più insigni farmacologi italiani. Ecco, lei da molti anni denuncia questo consumismo farmaceutico, quindi immagino che le accuse contenute in questo articolo non la trovano impreparato. Certamente no. Io aggiungerei alle considerazioni che sono state fatte un cambiamento molto importante che è avvenuto nell'industria farmaceutica e che è stato rappresentato da un passaggio che è avvenuto più o meno intorno agli inizi degli anni 90, in cui alla mentalità medica e alla direzione medica che in qualche modo regolava un po' tutta l'attività dell'industria farmaceutica, le multinazionali divenute più grandi, più importanti, hanno fatto un cambiamento per cui in realtà la direzione, l'orientamento è andato in mano al marketing. E sì, questo è un cambiamento che è stato molto importante anche nel determinare l'orientamento dell'industria farmaceutica. Ecco, ma in questo cambiamento, diciamo, di asse strategico, non c'è, diciamo, anche l'effetto di quell'allargamento del concetto di salute, proprio definito dall'OMS come benessere fisico, psichico e sociale completo, per cui non si promette più soltanto la guarigione, ma quasi la felicità. Però bisogna che alle promesse seguano anche i fatti, e certo, in realtà la letteratura scientifica sottolinea che molto spesso gli studi clinici che hanno condotto alla realizzazione di farmaci hanno sovradimensionato l'effetto dei farmaci e hanno invece sottaciuto gli effetti negativi dei farmaci. Abbiamo avuto esempi molto importanti, basta pensare ai Coxib, cioè a questi farmaci antinfiammatori, certo, steroidei presentati come fortemente specifici e come privi di effetti gastrotossici, che invece poi hanno rivelato importanti effetti di tipo cardiotossico. Evidentemente l'enfasi era stata portata tutta solo sui benefici e poi si sono pagate le conseguenze anche dal punto di vista dell'opinione pubblica. Credo che l'opinione pubblica negativa nei confronti dell'industria farmaceutica sia proprio dovuta anche un po' a tutte queste situazioni in cui a tante promesse non sono poi seguiti dei risultati significativi. Ecco, sì. No, stavo dicendo che tra l'altro uno dei campi in cui c'è stato un sovradimensionamento è quello dei farmaci antitumorali. Purtroppo anche in questo caso si continuano a vendere prodotti ad alto costo che quindi hanno un influsso molto importante poi sull'economia e sul bilancio dei problemi della sanità. Sono venduti prodotti che vantavano molti vantaggi, ma che in realtà poi alla prova dei fatti danno risultati poco significativi. Ecco, le industrie farmaceutiche si difendono dicendo che se non ampliassero il loro mercato, magari anche con farmaci non molto efficaci, non avrebbero poi i profitti necessari per investire nell'innovazione. Abbiamo visto quanto ci vuole per varare un nuovo farmaco. Il problema è però che i farmaci non sono fatti per i profitti dell'industria farmaceutica, i farmaci sono fatti per i pazienti e quindi bisogna tener conto dei diritti dei pazienti. Non possiamo inventare malattie o cambiare i parametri di normalità per aumentare il numero di persone che vengono trattate, perché non dimentichiamo che i farmaci danno benefici ma al tempo stesso danno anche dei rischi e quindi degli effetti collaterali. Fra l'altro questo credo che sia molto ben presente attenzione alla politica che sta facendo Obama, perché Obama ha stanziato 1,1 miliardi di dollari recentemente per studiare confronti fra farmaci, per fare una cosa che non è stata fatta in modo sistematico in questi ultimi anni, insomma, cioè, quindi in modo da sapere quali sono i farmaci che sono veramente attivi rispetto a quelli che invece sono meno attivi e che quindi non dovrebbero essere prescritti. Ricordo che anche secondo la legislazione europea un farmaco per essere approvato basta che dimostri qualità, efficacia e sicurezza. Non si richiede che se vengano fatti i confronti e soprattutto non si richiede che un nuovo farmaco abbia un valore aggiunto. Certo. Allora, se un nuovo farmaco non ha un valore aggiunto, ci si domanda perché debba andare in commercio. Bene, noi ringraziamo il professor Garattini, a risentirci presto. Grazie. Dai farmaci alle parole, a Charité-sur-Loire in Francia, c'è stato come ogni anno un festival delle parole, il Festival des Mots, con un centinaio tra spettacoli, conferenze e mostre, e una ventina tra editori, scrittori e giornalisti hanno designato la parola dell'anno. Negli anni scorsi erano state elette parole come respect, precarité, bravitude. Quest'anno la palma della parola più importante dell'anno è stata parachute doré, paracadute d'oro, chiaramente legato ai problemi della crisi economica, ma certamente una parola meno negativa di recessione o di depressione. Certamente parachute doré, che in italiano chiaramente non viene usato normalmente, è meglio di ammortizzatore o di salvataggio bancario. Però ci potremmo domandare se il paracadute è d'oro, la materia su cui poggiamo i piedi quando atterriamo è una parola che non si può dire. E a proposito di marketing, non soltanto le industrie farmaceutiche fanno ricorso alle tecniche della promozione, ma anche addirittura le religioni. Così scrive su Juicy.com, un sito ebraico, Patrick Aleph, a proposito così del confronto tra i vari culti, e sostiene che insomma gli ebrei dovrebbero imparare a vendere la propria religione meglio, perché se si vanno a confrontare i prodotti, per esempio l'ateismo consiste nel vivere soltanto per se stessi, senza regole, senza responsabilità, soltanto divertimento. Il cristianesimo dopo tutto promette il paradiso e c'è una chiesa a ogni angolo di strada, il buddismo puoi sederti e contemplare pacificamente. Invece dice l'ebraismo non ti permette di uscire al venerdì sera e di fare shopping al sabato, e poi ti impone tutta una serie di rituali molto rigorosi. E quindi, sostiene Patrick Aleph, è ora di fare del marketing migliore per vendere meglio questo prodotto religioso. La finestra sul cortile. Are children getting dumber? I nostri ragazzi stanno diventando più stupidi? È il titolo piuttosto provocatorio di un lungo articolo di Donald Hirsch sulla rivista inglese Prospect. E la domanda, diciamo, parte da una serie di dati relativi ai risultati scolastici degli studenti inglesi. Evidentemente le polemiche e le lamentazioni sulla scuola e sulla decadenza dell'istruzione non sono una prerogativa italiana. Perfino l'Inghilterra, a cui tutti noi guardiamo come a un modello di istruzione, di elite, di eccellenza, in realtà ha i suoi problemi. E cosa succede? Che soprattutto alla fine, in questo periodo dell'anno, quando vengono resi noti i risultati dei test di fine anno delle scuole medie, delle high schools, e dell'università, c'è un coro di lamentele e di segno opposto, cioè se i tassi di promozione aumentano, i commentatori diranno che gli standard educativi sono in declino perché gli esami sono diventati troppo facili. Se invece i tassi di promozione crollano, se ci sono più bocciature, diranno che gli standard stanno cadendo perché i giovani prendono dei voti troppo bassi. Insomma, c'è un dilemma di fondo. Insomma, se si vuole una scuola più facile per permettere a una massa più grande di persone di accedere ai gradi più elevati dell'istruzione, oppure se viceversa bisogna alzare l'asticella in modo da aumentare, da migliorare gli standard educativi e il livello culturale di uno strato magari inferiore di popolazione, ma con delle caratteristiche di eccellenza intellettuale. Insomma, la domanda è se i livelli educativi stanno veramente cadendo e sono peggiori adesso rispetto a una generazione fa, o se piuttosto il problema è della scuola che non ha e non insegna le cose giuste, che quindi bisognerebbe cambiare proprio i metodi e i contenuti educativi. Secondo Hirsch ci sono alcuni dati di fatto di cui bisogna tenere conto. Dice: nel 1980, l'anno in cui l'autore dell'articolo prese la sua laurea, è soltanto 1 su 10 della sua generazione raggiungeva la laurea, arrivava alla fine degli studi superiori. Invece, dice, per la generazione di mio figlio probabilmente arriveranno alla metà, e quindi c'è comunque un miglioramento, ma ci sono anche un miglioramento nel senso di una estensione dell'istruzione. Però ci sono viceversa dei dati più negativi, che sono il fatto che, per esempio, i voti non corrispondono più agli stessi standard, cioè un 8 di oggi, se vogliamo parlare in termini italiani, vale quanto un 6 di 10 o di 20 anni fa. E ci sono, sostiene Hirsch, due scuole di pensiero. Una è quella di James Flynn, un specialista neozelandese che ha misurato l'intelligenza e ha scoperto che in realtà nel test di intelligenza il quoziente di intelligenza dei ragazzi è aumentato nel corso del XX secolo, è aumentato stabilmente, quindi non bisogna guardare tanto i risultati scolastici, perché in realtà i ragazzi stanno diventando più intelligenti di un tempo. E viceversa, c'è un rapporto del 2008 di Michael Shayer del King's College di Londra che invece dimostra che c'è stata un declino negli ultimi 30 anni negli test di logica degli studenti più bravi. Quindi sostanzialmente quello che succede è che è migliorato il rendimento medio degli studenti, ma le punte di eccellenza non sono più punte come un tempo. Ma intanto ci ha raggiunto al telefono un ospite che salutiamo, al quale diamo il benvenuto, è Paola Mastrocola. Eccomi. Scrittrice e insegnante, a cui diamo il benvenuto alla nostra trasmissione. Ecco, lei ha letto questo articolo di Donald Hirsch. Ovviamente sì. Lei conosce la situazione italiana per esperienza diretta, ne ha scritto nei suoi libri. Sì. Lei condivide insomma questa diagnosi? Assolutamente sì, l'articolo è molto equilibrato, come lei ha spiegato, perché il dramma è appunto ha questa doppia realtà. Insomma, c'è una massa che noi aiutiamo sempre più giustamente a raggiungere un'istruzione buona, ma c'è il fatto che ci perdiamo le eccellenze, questo è indubitabile. Mi spiace constatare che anche la scuola inglese sia a questo punto, ma non avevo molti dubbi, perché credo sia un problema di tutto l'Occidente. Perché è un problema di tutto l'Occidente? Perché forse qua, come spiega anche Hirsch, quando noi parliamo di valutazioni, perché lì c'è un problema proprio di responsabilità, se vogliamo, degli insegnanti. Cioè dare un O level, un A level, come dicono gli inglesi, oppure insomma dare un voto, non so, 8 piuttosto che 6, non ha lo stesso valore in che aveva nel 1980. Ma dice, ma sarebbe preoccupante se fosse così, perché il mondo è cambiato anche il contenuto dell'educazione. Lei è d'accordo? Sì, è ovvio che il mondo è cambiato. Mi sembra però sempre il solito alibi, ecco, nel senso che noi constatiamo, ovviamente, ormai quasi tutti noi insegnanti, un grave peggioramento delle facoltà cognitive dei nostri allievi. Sì. E questo è innegabile. E d'altro lato però ci piace dire che il mondo va avanti, che siamo, certo, in un eterno progresso e che quindi chissà quali mirabili doti nuove hanno i nostri ragazzi e noi non siamo ancora in grado di valutarle. Ma secondo lei perché questo declino delle facoltà logiche? Cioè dovuto, che ne so io, all'effetto della televisione oppure dei videogiochi o che cos'è? Sì, è ovviamente legato a tutto il tipo di vita che facciamo, secondo noi, non solo alla scuola. TV, weekend sfrenati, divertimenti vari, familiari e non, questo sì. Certo che la scuola si è adeguata a questo stile di vita molto disneyano, direi. Noi amiamo ormai una scuola che diverte, nel senso etimologico, che porta fuori, diverte, li portiamo a vedere i fossili, a visitare il Museo Egizio, però insomma abbiamo voluto una scuola molto fuori, molto divertente. Io ormai ho ragazzi in prima liceo a cui, non io ma tutti noi, insomma, dobbiamo fare rifare da principio l'ortografia e l'analisi grammaticale, e non dico logica del periodo, perché sì, sì, sono accidenti. Bene, sì. Noi ringraziamo Paola Mastrocola, a risentirci presto e auguri per il suo lavoro. Grazie anche a voi. E ci spostiamo in Germania per parlare della Ferrari della Germania Est. Di che si tratta? Heinz Melkus, che era una specie di Enzo Ferrari comunista, negli anni 70 produceva nella sua officina in Sassonia l'unica auto da corsa commercializzabile della DDR, la Melkus RS1000. Montava un motore a 3 cilindri, la postazione di guida era a 1 metro da terra e raggiungeva nella versione da pista i 200 km all'ora. Siccome tutti i pezzi di cui era composta erano necessariamente prodotti entro i confini nazionali, la Melkus divenne il vanto del comunismo tedesco. In verità di strada ne fece poca, perché il muro impediva ai suoi possessori di scorrazzare liberamente. Ora però i discendenti di Heinz hanno riaperto l'officina e si apprestano a lanciare una nuova versione del bolide. Di certo sarà più leggera e veloce, visto che si è definitivamente sgravata di tutta la zavorra ideologica. E andiamo in Cina, su China Culture. Leggiamo un articolo su una costume molto diffuso nella provincia del Sichuan, che è la pittura con lo zucchero. Sugar painting è molto sviluppato e sono degli artisti da strada che spesso vengono circondati da bambini e che producono per l'appunto dei quadretti con lo zucchero di canna o zucchero bianco, e il bambino può scegliere il tema, il cliente, insomma, di solito un bambino, può scegliere il soggetto, che può essere un drago, un uccello, un cane, un cesto di fiori e così via. Ecco, una delle caratteristiche della pittura con lo zucchero ovviamente è che l'artista deve produrre molto rapidamente, perché lo zucchero si solidifica molto in fretta. Certo, in questi giorni in cui si commemora la strage di Tiananmen c'è molto bisogno di arte zuccherata in Cina per addolcire le amarezze del regime. E per oggi è tutto. Ringrazio Vittoria Mussini e Daniele Casagrande in redazione, Fabio Cantadori in regia e tutti voi per l'ascolto. Da sabato prossimo vi terrà compagnia per qualche puntata la collega Cristina Battocletti. Buon weekend a tutti da Riccardo Chiaberge.